Devo con la malattia, poverino. E quello è curabile, non è che sia, solo che per darti problemi è meglio, perché secondo dove si sdraia il coso contagia tutti, è un casino. Non lo so. Io ho avuto un'amica mia che c'aveva il giardino lì a Porto Torres, che abita lì a coso, a Serra di Puzzi. C'aveva una villetta lì, era il giardino grande, mi metteva la medicina e lo lasciava in giardino all'aperto. Quando è guarito se l'ha portato in casa, tu devi vedere che è gatto, mi sono pentito anche di averlo dato. No, non potevo fare altrimenti, sai, non ero buono in tagliato. E infatti, no, per contagiare tutti no, che cazzo. Io sono andato anche dal dottore a far vedere le macchie che mi aveva fatto. No, stava creando lo scompiglio a casa. Sì, ragazzi, almeno se non c'è più un altro di qualcuno, in un terreno, ma come ha fatto quella là. Lo so. Ma io, infatti, di malincuore l'ho fatto perché era un bel bello, poi l'avevo anche pagato oltretutto. Che tu che manta euro. Cazzo da noi pago dell'ammalato puro. Mi ha fatto pure pagare. Ma mi ha detto, non è niente quello lì, basta curarlo, sì si basta curarlo, cazzo contagione a tutti. Allora noi ne cerco un posto e noi lo curiamo. Però lì l'unica era fare come ha fatto con la mia canella, l'ha messo in cortile, sino a quando è guarito, poi una volta guarito se l'ha portato a casa. Cioè, non si può fare altrimenti, no? Ma devi mettere ogni giorno questo spray sul pelo, poi gli devi dare delle gocce a bocca, aprire la bocca e mettere le gocce dentro, devi usare i guanti perché sennò ti contagia pure quando fai i travagli. Non so, non mi ci riavo la malattia. E mi dà una maniazzona, più fai tutto una tacchiazza, eccetera, eccetera. E mi ha contagiato anche a Titti. A Titti l'ha fatto perdere il pelo da vicino all'orecchio, meno male che poi ero subito curato e l'è passato subito a lui. Come giocavano. Poi l'ho portato al veterinario a farglielo vedere, ha preso questa lampada viola, gliel'ha messa sopra, si vedevano questi puntini bianchi sopra il pelo. E io si vedevano proprio quello che portavano la malattia lì. Via. No, perché poi avevano fatto amicizia, vero? Sì, poi giocava, è quello che è stato il brutto, perché giocavano insieme e ha contagiato anche a lui. E ma già è passato subito, perché subito l'ho comprato lo spray, è subito passato, ho dato le medicine a tutti in fretta e non ha avuto tempo manco di allargarsi la mancia. Ed è cresciuto subito il pelo, poi ho messo lo spray subito, e quello gli è cresciuto subito. Ma lo stava già partendo dall'orecchio. Adesso che c'è? Brutta la mano. E tutti si arrampica, con le zampe davanti, si deve salire su per toccarmi. Che si non dice, fare le cose, fare da fare. E te è poco da piccare. Io oramai ti c'è i suoi anni, cazzo. C'ha 89 anni. Non lo so, arrivato a quell'età, sì. A 15 anni mi ha detto il veterinario che è pari a un vecchio di 89 anni. Vecchietta. Sì. Sta sempre coricata adesso. Ma giocami, se la faccio giocare gioca come un gatto normale. Se per dire prendo un filo, ah, oggi sai cosa ha fatto? E lì noi siamo rimasti proprio incantati. Ha saltato di colpo, si è andata sotto l'armadietto con le orecchie puntate e poi saltava da una parte all'altra, stava seguendo qualche mosca, qualche cosa. Cazzo, ma sai quanto ci ha fatto ridere, come ho fatto? Ci guardava questa faccia, ta-ta-ta-ta, con le zampe si vedeva, ta-ta, gli dava i colpi. Perché poi sai cosa fa? Si trova i siti, li ammazza e se li mangia. Sì, li fanno così i gatti, anche Cerso, Nerone, anche i gatti che ci sono giù di Missigine, e si rimangono. Ehi, perché loro si divertono a simulare la caccia, no? Loro trovano anche i tappi in terra, i tappi di bottiglie e cose, tutti per dire, se trova una penna sul tavolo, prende la butta in terra e si pone a giocare, dà le zampate. No, ma io non mi vado a dare il Nerone, l'ho fatto. Tutto si capotteggia, rincurri, invece in tutti i campi di robe, le cucine immobile, via, Niagarino. Poi lo prende con le zampe di davanti e con quelle dietro lo prende a calci. Sì, lui si infatti, è quello che fa il capo. E quella lì è la simulazione della caccia, no? Loro qualsiasi oggetto lo usano come se fosse un animale, che stessero una preda. Sì. È bello che sai la caccia ai gatti quando la fanno. La notte. La notte. Loro sono predatori, predano di notte. E anche le simulazioni con i tappi, con queste cose le fanno di notte. Tu immaginati quando era piccolo Titti cosa combinava, si doveva ammazzare a volte perché prendeva, per dire, aprivamo la bottiglia dell'acqua, il tappo sopra al tavolo, magari la bottiglia era finita e invece di rampazzire la lasciavano in chivi, brutta poi sopra la lavanca, prendeva lui, buttava il tappo in terra e stava tutta la notte pum pum pum pum, cazzo di così. Mi ha fatto bizzava di Nerone, ha sentito tutto, e gli ho detto bene con il tappo. Col tappo, con le penne, guarda se lascio una penna sopra i bigodini, quelli che usa mia moglie per farsi buco e cose, i bigodini, e se lampa in terra, e diventa rottura, e poi così, che poco si diverte. Appena, e non puoi lasciare nulla, pure Nerone è così, non puoi lasciare nulla che ti veniva pure a 5 canti di rocchi. Adesso quando per dire esco dal lavoro, non mi tolgo le scarpe, metto le calze dentro le scarpe e ce le metto in bagno. Beh, la notte si sente lui. Miau miau, miau miau, miau miau, miau miau. Mini bis, a Brulaiana, e cosa va via, la gazzetta mia si era tutta malpena. Miau miau. Poi la mattina è un casino cercare le calze, perché se le porta, se le nasconde per palparsene, capito? Lui sente l'odore mio, capito? L'odore del padrone e se le palpa tutte. Ha fatto così, ho messo la cosa sopra la sedia, ha cominciato a strusciarsi, a fare le fusa, lui. Ehi, ma lui se la prende proprio, se la porta in terra, eh. Ma sai quante volte porta i vestiti di mia moglie in cucina? E mi dice, disgraziato, tutto pieno di peli, guarda, bravo, tutto morso in canto il vestito. E quando fa così è perché sta palpando qualche vestito. Tutto, cazzetti di Manuela, di tutto. Lui quando forse sente bisogno di affetto e cosa, si prende una parte del padrone, capito? È vero, proprio così. Per notte me ne è giunto un ero, ha cominciato a darmi tutti i baci, a farmi le fusa, mamma. Ma lo sai che quella palpazione che fanno dei vestiti è il miglior atto per dimostrare affetto al padrone. È la miglior forma di affetto che può dimostrare al padrone un gatto. Perché scivola praticamente quando era piccolo che palpava la tetta della mamma per far uscire il latte. Scappa. C'è reso come ha fatto l'altro giorno così. Anche lui lo fa, eh. A me me lo fa di gente, tutto. Però tu mi ci struccato di me, già mi vuole bene, dai. E te ne E non te l'ha mai fatta palparti la tetta? Sei e il petto. E una volta era petto nudo, mico friuletto, e ho dormito, si è avvicinato tutti e comincia a palparmi il petto e fare miau, miau, e mi palpava con le zampe. No, di certo, non... Sì, mi si è strusciata, però sempre nella maglietta, mi si è strusciata anche due. Di solito lui mi si struscia, mi faccio, perché io non amo coricarmi con un coso, cioè con questa maglietta, là, solo quando c'è caldo, caldo, caldo. E no, io soffro il caldo, quindi sono sempre in calzoncini corti e a petto nudo. Quando sono a casa sono così. Io sono leggero sotto, ma sopra no. Cappa cappa. E Titti quando mi vede coricato che riesce a scappare dalla cucina, si corica vicino a me. E qualche volta mi sveglia perché mi lecca i capelli. Allora, anch'io soffro molto il caldo. Beh, quando sono così tutto quando c'è l'estate, cioè quando c'è molto caldo. Allora mi trovo anche la maglietta, se no io di solito no. Mi lascio sempre la maglietta, no, non amo essere. Cazzo, cazzo. Tutto viene diverso. Diciamo che è proprio un'esigenza, non più che un'abitudine, un'esigenza, perché con la maglietta mi sento caldo, non poter resistere, e Marco è uguale a me, Marco lo stesso, la madre sta sempre dicendo le cose perché vuole stare a petto nudo. E se va caldo da pronto. Si cocca pure in terra. E a volte mie abitudini. No, a me invece non mi piace coricarmi in terra. Ci ho provato, ma non piace molto. E altro, quando c'è quel caldo da crepare, ui, tanto si sta bene, ti puoi girare, c'è un bel spazio nella sala mia. Ti puoi girare come vuoi, al freschetto, con la finestra aperta. Lo so, quello che vuoi, no, a me non piace molto. Poi mi alza alle 4 di mattina e me ne farò a letto. Che mi affreddo. Manzano. Tanto? Guarda di Manzano. Ehi, perché c'è fa il freddo? Come se c'è il freddo, mi alzo, ovvio. Ah, ma pure adesso che adesso lo fai. No. Solo quando c'è un bel caldo, che non riesco a stare a letto, che mi si appiccica tutta la lenzuola perché c'è caldo, allora non vuoto. Poi che altro? Sicuramente deve essere il sangue. Pure io c'ho caldo, alla sera. Cioè, io sto tutto il giorno, adesso in questo periodo, tutto il giorno caldo. Invece poco, quando stavo andando qua anche la sorella, c'è un freddo. Le donne sono più freddolose. Vero. Sono molto più freddolose. Mia moglie per dire chiude tutte le finestre, cazzo, me le fa morire. Non è il massimo. Allora, lei abbassa le serrande a morte. Lei abbassa a morte tutto quanto chiuso. Allora io piglio via. No, beh, frega la foto, tanto se non riesco a restare. Mi apro, mi spalanco la finestra della sala e mi cojo in tipo. Non è che sia tanto indicato. Cosa, con i cassi in terra? No, dico, a me, cioè, a me non mi piace. Però con le finestre chiuse, cioè con le serrande abbassate, cioè anche le avvolgi abbassate a me non mi piace. Lo so. Ma lei dice che entra la luce la mattina e poi la sveglia, invece così non entra la luce. La resta addormentata, se la cosa ci sveglia il telefono. A me non mi fa nessuna differenza, se faccio il giorno si rubula tutta la stessa rombo. Anche io, ma lo so tutti così. Se entra la luce lei si sveglia subito. E quindi... E poi ha paura degli animali, se entra il pipistrello, ui. E chissà forse non li può più, si può se pensare a... Poi la grida, papà, sa che è successo, sono andato con re. Era un pipistrello che è piccolino, mi ha tutti, mi ha giubilato a ballare e mi ha abbriato la bocca per mossicare. Ho preso, con un pezzo di carta l'ho preso, nemmeno con le mani frutta, un pezzo di carta, no, e tiragli tutta la roba con l'hai visto. E cos'è? È un piccolo pipistrello, gli avevi fatti. Mamma mia, che cosa sembrava che fosse tanto di sa che cosa? Un pipistrello in casa, mamma mia. Sì. Ma c'è un'ora e vedremo entrato in casa. E si attacca il cappello. E la mamma cosa deve dire, che è entrato un falco in casa? Mamma sì, che aveva fatto tenere ragione. Io l'ho fotografato, me non ci credi. L'ho fotografato. Ah, praticamente è successo così. Che ero a lavorare, ero ancora a casa di mamma, abitavo. Sono tornato e mia madre mi ha detto, oh Gianni mio, ho chiuso la porta a chiave della sala. Perché? Cos'è successo? È entrato un animale con un'apertura di ali enorme. E te che cosa sarà mai? Un'aquila. Dice, no Gianni, non ti fidare perché è un bel grande. Allora cosa ho fatto? Mi sono avuto una busta in capo, hanno una gran fascia, no? Ho fatto gli occhi, tutto quanto e un paio di guanti di pelle. Sono entrato in camera, la sala. E che cos'era? Cazzo ne ha fatto, con un'apertura di ali. Vero di me di burrio, visto sì che la vanno a vivo. E ho una storia, un falco, era sempre un rapace però. E cosa ho fatto? Insomma, dammi un lenzuolo. E allora mi sono fatto dare un lenzuolo. Come si è calato, gliel'ho buttato addosso. L'ho preso in mano. L'ho messo sul davanzale della finestra. Gli ho fatto prima una fotografia, poi gli ho aperto la finestra e l'ho fatto volare. Gli ho fatto cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc E c'era la festa perché sicuramente ha, che ne sa, sbagliato rotta, che cosa ne so. Se tra due te lo dice a Biascin. E dai, quando dentro gli animali e poi chi si trinca il maratto. Non ci aveva degli artigli a due, era una cosa micidiale, l'ho preso per le zampe. E stava cercando anche di beccarlo, ma c'erano i guanti di quelli di cuoio, quelli che si usano per saldare, allora io facevo il saldatore, quindi c'erano quei guanti lì, era a scuola. E cazzo, ho messo un paio di quei guanti lì, cazzo, perché sennò si ti aggrava. Un'altra volta invece nelle scale è entrato un barbagiano, quello è un bel bello, è bianco, bianco, bianco, bianco. E ho appena sentito boom nella finestra, e cosa è successo? Qualcuno si è fatto male. Cazzo, ha aperto la porta, ha visto questo barbagiani. Gianni, vedi che c'è un barbagiani entrato. Cazzo, ne ha visto chi era. Bianco, bianco, tu. È tipo un gufo rimane, no? Però bianco. Ho capito, E fa cavalziro, come ne ha fatto. Allora, quello lì l'ho preso è l'ho dato a Claudio, un tipo che abitava sotto i portici e che aveva la passione di animali, aveva un medio animali. E l'ho portato, ui quanto le era piaciuto, ui Gianni mio cosa mi ha portato, quanto è bello, l'ha preso una gabbia di quelle grandi grandi che c'aveva lui e l'ha messo solo nella gabbia e poi gli ha dato un pezzo di carne visto che si era mangiato e se l'ha tenuta in gabbia, l'ha preso lui e aveva di tutto, quello c'aveva canarini, cardellini, e ne aveva poco da animali, di bizzone. Venera un pepe. E avevano il negozio di alimentari sotto il porticato che c'è a Sacro Cuore lì, no? Quel porticato che c'è, non il secondo ma il primo. E avevano la casa che era attigua al negozio, c'erano le scaline, scendevano dalla casa e andavano direttamente al negozio. Poi non esiste più né lui né nessuno. Lì non penso che sia vivo più nessuno, c'è l'Anna, la sorella, la mamma, io conoscevo e a Claudio li conoscevo, poi lui era orologiaio, faceva l'orologiaio in via Sorso. Di morte sono. Penso di sì, quello lì Claudio era di chi si pizzi di bizzone, sai cosa facevano di notte? Andavano, salivano sul campanile della chiesa, no? E facevano l'urulato e l'eco come loro urulavano si espandevano e è uscito sul giornale uomo lupo a Sacro Cuore e lo stavano cercando chi era, no? E poi salendo che su questo campanile un giorno si è preso la scossa ed è rimasto con una gamba zoppo, diciamo, quasi paralitico. Usava le stampelle aveva la macchina per invalidi, facendo queste fecidi hanno toccato un cavo di alta tensione con la gamba e si è folgorato. E andavano sul campanile e facevano il lupo. È uscito anche il mio cognato messo un giornale. Ma sai cosa facevano da ragazzo? Ci mettevano quelle maschere, quelle che attaccano la faccia, un bel da vecchio di carnevale, di quelle che proprio che aderiscono la faccia. Un giorno si fermavano di fronte vicino al cimitero con la macchina. Un giorno questo qui si è avvicinato, scusi mi fa accendere dal buio. Ha detto sì, aspetti, ha preso, ti ha acceso l'accendino, quello che mi è andato a accendere, ha visto la faccia. Secondo me ha fatto la faccia. Se la prima un asciutto dice che toccava i ribidi a Darito, la cantera corretta. Ed è uscito pure in giornale questa cosa. Ignoti si divertono a spaventare la gente vicino al cimitero di notte. Chiaro. Ma deve essere attenti, mi sto già facendo un macco, tu che si sta facendo. Sì, vabbè, già non so tipi, il cognetto non so se tu lo hai conosciuto, è alto 2 metri, quasi 2 metri, 1,95 metri mi pare che sia, grosso, asso, non è tipo che si fa di la vita, futti di me. Sì, vabbè, quasi ricrociato tanto vuoi, ma si è già finito. Detto che è agile e veloce, ti fate che la mela. Io lo so. Io una volta ho visto un incidente via Brigata Sassari, non so se te l'ho mai raccontato. Questi due sono sbattuti e questo qui che aveva il torto marcio, perché doveva dare la precedenza, era grosso e alto, e se la bile della Baschimanna, le macchine erano ancora sbattute, e quell'altro dell'altra macchina era bassottino e piccolino, eh. Questo qui ha cominciato a parlare della parolaccia e cose. Oh, le macchine erano attaccate ancora come se erano sbattute, quello piccolino ha preso con un brico, ha brincato le macchine e tira con una blanda di peli a faccia a questo qua che se la lampada in terra. Tira con una giussa, ma cazzo! Io dico si la mette a pensare che andò bene, per le altre grosse come stesse. Siamo ai grossi, faccio fare pure un salto e grosso che è molto, molto veloce, schianto. Non sa mai che trovino indietro. Purtroppo molto si danno il vantaggio, il ghisto, bomba. Trovo quello di calmo, che ha fatto una rusa che non accusi né 3 né 4. Tanto io mi ricordo quando frequentavo in piazza, che c'era un periodo che c'era questo ragazzo che saliva con gli amici e coso, e doveva dire il capogreffa, gli amici tutti dietro, passava e chiudeva un ciaffo a uno senza motivo e se ne andava. E tutti gli altri, vai, io ti piglio il riso, dice minacciando, difendo. Un giorno ha trovato una greffa dei ragazzi, stavano parlando. E ce n'era uno con i bicetti grossi, no, faccia di quelle tipiche, faccia un po' da soggetto e cose. Però non era così. Direi che tu un ciaffo a questo qua, a parte che il ruggiaffo non le ha arrivato, perché come è andata con il ruggiaffo, la piglia della mano e l'ha bloccata. Direi che tu una strombata a faccia, boom, cazzo una sussa, gli amici come hanno visto così, sono tutti scappati. No. E molte volte, cioè, tanto ti pare che una personaggia di soggetti, di che cose, e da voi è una persona con le palle sotto, e con una giusta non è così, manco guarda. Oh, c'era il figlio di mio padrino, cazzo, che mamma mi raccontava che quando era piccolo era sempre con le mani, si innalzava le mani e cominciava a cudi, perché quando toccava il fratello lo difendevano, e sempre così è rimasto, nel senso che è una persona tranquilla, no? Un bel tranquilla, però quando si deve difendere si sa difendere, lui è un professore, non è nemmeno un macco, è professore. Beh, fatto sta che c'era il più quotato a Sacro Cuore, io su che fudia di più, no? Ed erano delinquenti, cazzo, mettevano i cantoni in mezzo alla carriera, tu con la macchina bassena dovevi frenare di colpo per cavare i cantoni. E un giorno è passato il figlio mio padrino, aveva visto questi cantoni in mezzo alla strada e cosa, si è fermato, ha detto che li ha messi questi cantoni. E ne cito lo più forse, no? E la giubbuccia antica che cosa dicevi? Mi ha detto guarda che queste cose non si fanno, le ha detto prima con le buone. Lo sai che se arriva qualcuno in moto non se ne accorge si ammazza qua. Ti puoi sfasciare la macchina. Non so cose che si fanno. No? E a chi a te cosa dicevi? Un paio di schiaffi vuoi? E lui ha detto vieni a tirarmi un paio di schiaffi. E te l'ha decudito e ha pigliato Susa, ma Susa forse. Allora gli ha chiesto la rivincita, da chi hai cutto, l'ha fatto brutta figura davanti a tutti, la rivincita, la torre cutto, una sola volta, se non ti basta ti do anche la terza. No, allora che impara a fare un logo. Hai capito? Sai cosa facevano? Facevano giochi strani, prendevano quando c'erano quelle pattane delle macchine che erano fatte in cosa la mia, tanto non so se tu te le ricordi, ne tiravano una da una macchina, poi quando passavano le macchine la buttavano nella strada e le macchine si fermavano perché pensavano che avevano perso la battaglia. E poi tre battaglie andate. Poi d'estate l'estate quando vedevano le macchine che passavano col finestrino aperto, prendevano una busta piena d'acqua, pum, e la buttavano dentro. Che gente. E si legano una ciappa a grusuio, che era tutta una bella giussa, era fatto vapor, tu figuri e tutto. Ed era Rubio Fossi, quello che si credeva il capostipite dei delinquenti. E una volta io ero con una ragazza, Sacro Colli, con una mia ex ragazza, ci stavamo facendo una panchina, cazzo bubina, ma ne lampadù, da sotto la banchina il gavettone me lo bagnato tutto quanto. Cazzo, ma un gavettone mi stava mondetta di quelli grossi, ma uscì e già arrivi a me. Cazzo, prende, abbiamo bagnato sia me che la mia ragazza. Un giorno la faccio attorno alla finestra, li vedo tutti sotto il balcone di casa, tutti in greffa, fabbitelli, e mille mi, questo qui è mio. Ha giubilato la busta di ripisa, ha giubilato ad Eva, cazzo di cultura Eva che sono caduti tutti in terra dalla volta che va via, io abitavo all'ultimo pianto. A Roma che impara nella prossima volta. E poi mi ha detto, bastardo Gianni, ce la paghi questa, ce la paghi, chi male fa male aspetti. Non ti hai immaginato che eri tu? No, oh, mi hanno visto brutto. Chiappa, se lo vai tu ho fatto pure io, no? Vabbè, e dopo c'era manco a far la posta a tutte le persone che c'erano il giorno che l'hanno fatta a me, quindi si sono potuto dire di così, già mi capite in Gisotto. Dove? Perché c'era un periodo che a Sacro Cuore non potevi passare, dovevi passare correndo, se no ti facevano il gaffettone. All'entrato mollavo la macchina, entrato dalla macchina a casa, dovevo stare attento da tutte le parti, perché come vedeva uno che passava, che rientrava, spugna il gaffettone. Lo so. Eppure qua tanti anni fa era così, eh. Allora sai cosa avevo fatto? Avevo imparato, avevo preso una di quelle bottiglie dell'acqua, di quelle da 2 litri, quando si stavano avvicinando bombardavo, schiacciavo, ciù, si rifugia. No, ma come si impara? Ma tu dovevi difenderti perché se no ti fa già regire a me, a tutti così vaziani, a tutti quanti, non è solo a uno. Passava uno in macchina col finestrino aperto, cazzo mi ricordo di questa ragazza, si è messa anche a piangere, poveraccia, si è fermata, pignendi, come faccio adesso? Vede dentro del capolo, niente che faccio dentro di 6 cose, ma perché non la ciappa nello sdoglio? Come il tequito che l'ha già fatto, la poi è passato tutte le macchine. E una di sempre che si più fosse cosa, stavano suonando la chitarra, la verità, non stavano facendo nulla di male, stavano suonando canzoni sassarese così con la chitarra nelle panchine, si ferma questa macchina, ne varano tutti i più delinquenti di Sassari, mamma mia, Rudasso, tutti gli scotti che tippa. Si avvicinano, magari lo più forte in occhi, è sempre grido, e io gioco pagosa. Arrabbiato la chitarra da mano, viene tutta a capo, viene fasciata in capo, c'è questo qua, questo ubriaco. E non arriva, vabbè, uno stava andando a prendere la pistola dalla macchina, l'ho fermato io, che se no guai. Dicevo, mi devi la vita, che se no non tirava vivo, eh. Amato impara. Cazzo, deve girare le palle, ma c'è sempre il giovane. Dove va? C'è gente di mombetta, proprio. Poi un giorno dopo sono venuti a chiedere scusa, ci hanno detto che erano cotti, che non capivano nulla, che la chitarra ci avrebbero pagata e cosa, no, non c'erano problemi. E erano solo cotti, scusarli. Ma se... Ma una persona era nelle macchine per la pittura. e chi se la mancante si la buttava sempre in macchina? No. Ma sai cosa ho dovuto fare per fermare? Ho dovuto tenere a forza qui. Lasciamo andare, grazie, lasciamo andare che l'ammazzo, grazie. Già me lo grappa. Già me la fatta andare. Ma si l'ha rovinato, grazie. Ma un guascio. Tanto quelli lì sono già rovinati e non era fottia nuda. Lui siccome era sempre con questo cacchio di pistola che ci aveva, sempre in macchina, per cui a dire, mi devi aggare che a buco, era pazzo quello lì, quello non ci metteva due volte. Chiaro. E ti chiede i cazzi, se è una portata le mani, tu ti dica uno, cazzo. E che me la contenuta della montetta. Manco, ma fai idea. E adesso una persona tranquilla, che ha un buon lavoro, anche statale, cose, non è. Però da ragazzo era pazzo, Beh, se fa dire rispetta. Cazzo, c'aveva la moto più veloce del Sacro Cuore, 175 era di cilindrata. È un motore. Una Vespa. C'aveva il rapporti, il cambio della lambretta, mi pare. Il sedile German, di quelli lunghi, o Garman, come ti si chiamava. Cazzo, poco camminava questa moto. Grande meglio. Aveva fatto un po' di elaborazioni di gozo. E poi aveva 112 Abarth. Era tranquillo sino a quando non li pestavo i piedi, ma quando mi stava di piedi guai. Era furioso. Fatti bene, io adesso non penso che sia più così, però non sai chi è, la volta che al quadrato abbiamo trovato, che gli ho detto, l'ho chiamato per nome, se non te lo faccio il nome. Ma tu mi sto tentando a mio figlio perché mi hanno detto che era al quadrato correvo la moto. Lui so che ti intende, lui dice di fare di Romacco, la biglia non è biglia più moto, detto. E era venuto per controllare se c'era il figlio. Chi sa anche la mancante? Lui, c'è una fottia delle mancanti. Sempre pinnendo in moto. Da poi veniva un asso che era equilibrista, c'era la Vespa, andava, cambiava le marce con i piedi, guidava coi piedi, il manubrio coi piedi, stava seduto, con i piedi guidava, un pazzo. Si metteva in piedi sulla sella, saltava sulla moto, e faceva tutti i guriguloni. Pagava. Dai, combiniamo, via. Cosa cazzo fa l'amico lo figliolo? Lo so, ma lui sa i pericoli che ha affrontato lui e quindi adesso è più sul figlio, è più protettivo, perché sa che sono così pericolosi. Quando era ragazzo non se ne rendeva conto, lo faceva, dopo sempre quello c'era l'officina all'aperto, ci mettevamo quelle, visto di fronte alla chiesa che ci sono quei parcheggi. Lì si cambiavano i tizi, marmite, tutto quanto. Più di una volta si è fermata la pattuglia a controllare i pizi. Gappa gappa. In quei tempi lì ti fatevano, ma non penso che le rompevano le palle. No, allora c'era Pappellino a tu. Pappellino, una volta c'era Sugì, uno che chiamava Sugì, che era mezzo sugito. E io faccio vedere qualche pezzo con la moto, sbiglia, non mi stai pinnando, oppure va via Paperino, da dentro non si era bizzardo, non mi stighi Paperino, guida pericolosa, marmitta rumorosa, la moto truccata, io ho fatto un po' di verbale. Caso mai però si abbizzato che veranghi su Vemmo, cazzo buono, e io faccio qualche cosa, è impennato, una volta che il Paperino ha preso. E ma io una volta ho usato il cuore e mi hanno saccato la candela della moto. E ho detto dove abita lì? Vado avanti che la seguo in moto, cazzo. Andando a buon in moto, brum, brum, brum. Ma lì potete un bambino senza la candela. Ma la ho staccato la candela, andava a dire il smartphone, ma con compressione. Hai fatto guerra, ma che impara. Sì. Mica se ti fermavi molto dovevi stare attento. C'è la Vespa. Se ti fermavi 5 minuti, partivi e non trovavi più il cofanetto del motore. Ti ha furato di la vita. Io poi con i pinguini che ne combinavano le buie. Ma quindi? Ma ciò l'ha piscito, ma non vi ha fatto a pigliarlo. Se poco camminava e si è morto, poi era bravo lui guidando. Questo che ci aveva la moto 175. Ma che impara. Ma io mi ho visto i seguimenti, lo facevano apposta a me, quando passava li passavano vicino, li passavano a malettone, chi dubitava accelerava a pigliarli, no? E decide di fuggire di quel bocciofilo, prima lì dove c'è il bocciofilo ce l'è presente, prima c'era lo sbocco lì, non ci uscivi proprio da via di Sicilia, poi quando si divertivano a farsi seguire. Tutti i gatti, dai John le forza, io che non seminecci. Paperini gridavano, cazzo, che tornava da lì, chi è che ha gridato, che ha detto quella frase? Tutti quanti udi, ma non lo so, forse non era da noi. No, partiva da lì la foce. Ma se ne combinava, però sai che ci piace, chi c'era di me, figliato di Mila, non ne voleva vedere nessuno, quando vedeva a tutte cante me, sì, e bel giovane, non ne pigliato, quel Paperino qui era nominato, perché la Paperino che va via lo guri fuori. Studia Paperino, è chiaro il gico qua. Povera Amaro, mamma mia, non te ne perdonava una, ma con la stradale così, lui era tassativo brutto. Quelli erano vigili cattivi al vero, Ti sento bassissimo, non so chi sei. Per Paolo. Eia, chi sei? E ti sento basso. E dimmi chi sei però. Ciao, questo ben sentito. Avanti. Soia. Beh, e anche non è che sia molto fresco, Stiamo facendo un travaglio poco pesante. Questo cacchio di pette mi sta rompendo le scatole. E cosa cavolo è? Il pette non sai che sono. Sono le bottiglie pressate. La plastica, la plastica. Stiamo facendo le cartaste un be' alte, incelofanandole, facendo un casino. Ah, ecco. partito. Ho capito che era di Salino che sono per la trasformazione delle padelle. E anche da noi. Da voi? Sì. Poi che danno 30% sul vecchio. Ritirano le padelle vecchie e puoi comprare le nuove. Ti danno un fortissimo sconto. 30%. 30% un bel. È abbastanza. Ma allora lì guadagnano. Eh beh, certo che guadagno, tutti si guadagnano. Vai gappa. Alcuni che se lo possono permettere di fare una cosa del genere. Ma tanto, chi lo fa? Dimmi chi lo fa. A prenderti le padelle vecchie, le caffettiere vecchie. C'è la possibilità di risparmiare e ti pigli la nuova, poi quelle vecchie vanno alla rottamazione e le utilizzano, le scioglieranno il materiale, non lo so cosa ne fanno. Le fanno altre cose, o le fanno nuove. E chi c'è guadagno? Le vecchie. Per cosa le pentole che ci sono anche di quelle buone, antiaderenti, insomma, sono buone. Sì, quella che sta prendendo la Svizzera. Cappa. Cappa, cappa. Sì, ma se ne vale la pena, conviene, questa abitudine. Vabbè, uno che ce le ha ricche, noi ce le abbiamo tutte nuove. Perché mia moglie quando vede che si stanca con la fare antiaderente ce le butta via. Ce le butta perché dice che fa male, Non sono più buone. E una volta che si stacca al fondo con l'antiaderente, quello lì dice che se ne si resta con qualche pezzo così fa male. A cucinare la roba lì, capito? Sì, che quello che mi piace è più comunque come pentola, sono quelle in acciaio. Acciaio inossidabile. E anche chi si inghisa che trattava mamma non erano i buoni. Quelle in ghisa erano distruttibili anche. E anche quelli lì. E poi cubisavani. No, pure quelli sono buone. E qua non le fate di più di chi si inghisa, oh. Quelli che diceva mamma ogni a pentolone per fare la polenta aveva il pentolone grande in ghisa, dopo prendeva quella specie di mattarello e girava. E ho un po' di palette che sono in acciaio inox 1810 e anche noi ce l'abbiamo e già sono buoni, ma devi fare sempre l'occidente. Lo so, e ma chi se non si fa di ghiaccia? Se chi se non si fa di fea? No, chi no? Acciaio, acciaio. Perché tu mi delle antenne che si fecero a bocio d'orra. In acciaio pieno, cazzo, ne ha dubbo. Hai visto che gomme? Un giorno te lo faccio vedere. In via delle vigne. Ed è per un'antenna di televisore, un tubo lunghissimo, tutto in acciaio pieno, cazzo, santo beso è sul tubo. Ma no, non si faccia però. Quello non si annuncisce mai, ma sta scherzando. E vediamo se apposta lì, anche chi mi fa difficoltà. Perché c'è la salsedine che si mangia tutto. E dopo, siccome una casa bassa, dovevano alzare per l'antenna, dal televisore, quindi per metterlo alto, se è un tubo normale, te lo bicchia subito così lungo. Sì, sì, e dopo è un acciaio, mi sa un tubo. Ah, che tu che trabagliava la sera, abbigliato da anch'io. Ah, sì. E allora... Sicuramente, perché se vai a comprarlo costa un bel sì. E dopo gli ha fatto certe staffe, ui, già li faccio tutti in acciaio. Sì, ma dovrò farlo per forza così, secondo me. altrimenti della salsedine si la mangia. E a parte quello, il vento nell'Urampa, se non è ferrobieno o acciaio bieno nell'Urampa, invece quello lì è bello grosso, spesso, se non è stato un palazzo qui. Che bello, no, vuole roba buona, proprio. Vici. Giampaolo dice che sta mettendo le antenne tutte sul tetto. Bello. Non ne ha più uno in terrazzo di antenne, glielo ho chiesto a mettere, guarda, sto mettendo sul tetto, adesso metterò anche la mantova sicuramente. Saluta. Tutte quelle HF e cose si le ha messe sul tetto. Saluta. E si è deciso dove se gli hanno dato il permesso, se ne ha tolto dal terrazzo non ne ha più in terrazzo. Speriamo che si metta la guerra del baracchino, almeno abbiamo anche qualcuno da porre la torre. Ma prima se quanti ce n'erano andato da Porto Torres, sui, era pieno Porto Torres, perché poi tutte le imbarcazioni avevano la 27 e le mogli chiamavano i mariti e dici, e mi siamo... Siamo sbarcati fra poco. E mi è piccato David, a che cosa non mi dirà, capito? Parlava con la moglie. Ragazzo. Tempi belle. Facevamo così. E adesso non si sta. Nessuno ne sta più usando. E non è detto, ce lo usano ancora, ci sono delle imbarcazioni che ancora la 27 ce l'hanno. Ma non è dratta. È una dratta, la fottettina è una dratta. Per dire, anche non la usano. Caramba. È sempre bello, ma trovi qualcuno nuovo che fa una chiacchierata, magari. E mi baci l'ora. Anche non la usano la 27 nelle barche. I pescatori ce li hanno, e quelli anziani. Già lo so. Quelli che hanno i gozzetti e cose così, è rimasta ancora la 27. Ma diciamo che se uno si decide transitoriamente cose del genere, poi già si ripopola, visto come stava popolando gli anni scorsi. Sì, ho visto. Ogni tanto ne trovano un nuovo, ogni tanto ne trovano qualcuno che magari aveva gli apparecchi e non stava più entrando. Pure quello è vero. Ci vuole solo un po' di assiduità e un po' di persone che entrino, non solo due, ma che si affacciano anche gli altri. Ma mi sembrava qualcuno ha fatto mi. Oh, avanti che vuoi entrare. Ma stai uscendo di radio. No, sta uscendo. Tu non senti nulla? Negativo. Manco che qualcuno sta entrando, sta cercando di entrare, poco fa è uscito a metà la parola e però non ho sentito più nulla. No, negativo, no, non lo sento. Pazienza, prova a vederti l'apparecchio. Magari poi puoi entrare, perché non sentiamo la voce, è inutile che cerchi, ma se non guardi qualche filo che c'è che fa un masso. Sarà lontano, sarà. Ha detto della bimba, allora sta facendo lo scemo, va. Non lo so. Paga, pagare meno un quarto. La paura che è stato, no? Sì, ma è tutto, sono lontano da, dal Bulos. Che hai fatto? Niente, no. Mi sono solo allontanato io, boh. Così almeno non sente la voce vicino alle palle. Ecco, una parte vecchia. Sentiamo nulla. Sessione che fa break sul 41. Non stai uscendo, Ciao ciao. Ciao ciao, chi sei? Sicuramente sei anche di fuori, non sei di Sassari, vero? Ma sta uscendo. Cambio. Cambio l'abbiamo sentito. Chi sei? Ah, sai che mi sembra, quello svizzero, boh. Tu sì. Roger. Cappa, allora se hai il lineare attaccato staccalo perché non ti sta facendo uscire. Non è quello, non c'è. Io. Johnny. Esce. No, esce a tratto. C'è sempre a tratti. Chiappa. Aspetta un attimino, già cazzo, la pagaia manna. Mi aspetta, va un attimo che mi si è... Appo, non mi ha fatto tutto una quello scherzo. Non ho capito quale, comunque vai, tranquillo. Gione. Sì, ma mi si è uscito il capo d'acqua, aspetta un attimo. Nulla, non ti sentiamo giù. Prova a vedere il microfono. Cambia il microfono. Non c'era il microfono di riserva a cambiare. No, ma sei uscito. L'importante è. Beato, Romerici, Giorni, sono qua già, arrivederci, ho cercato di ripararlo, va. Adesso ci sono capo, non ho capito perché sta uscendo il corso, bisogna che lo veda un giorno. Cavoli. Proprio dello spinotto. Di che cosa? Il microfono. Ma non ho vita perché? Ma quello sì, mi è uscito dall'apparino, mi è uscito. Però ma ci manca il pezzo di gomma, adesso ce l'ho entrato un po'. Cappa. Vabbè, tanto io ti saluto che mi sto addormentando, è arrivata l'ora fatidica. Ci sentiamo, auguro una buona notte a tutti, belli e brutti, a tutti gli ascoltoni, anzi agli ascoltoni tutti. Ma certo, dai, poi dopo mi spieghi che è qua. quando ci abbiamo modo di trovarci, mi spieghi quella cosa là, poi te ne dico una io. Ciao, ciao, buonanotte, dai. Ciao, anche ciao. Ciao Gava. Sto salutando. Ciao. Ciao Piedi.